sentito che si facciano la prova dell'uomo in mare. Si chiama uomo in mare quando lanci la ciambella, no? Quando lanci la ciambella si chiama uomo in mare, c'era il sub lì, pronto, era messo lì per fare il corso, il concorso, no? L'esame, diciamo. Era lì che aspettava la ciambella. Perché sono modi e modi di tirare la ciambella, capito? Per fare un salvataggio. Sì, sì, no, ma io l'ho fatto, la prova a mare con la barca, che ti avvicini, li proteggi in modo che l'onda non ci vada sopra, lo proteggi, fa un movimento particolare di protezione, poi ti avvicini e rilanci la ciambella, ma non sapevo che c'era anche la prova dell'uomo proprio in acqua, così ti ammogli. Sì, quando abbiamo fatto il giardino c'era proprio il sub della capitaneria, capito? La capitaneria che si accertava che tu l'esame, cioè la ciambella, ti baffi correttamente, capito? Io la patente l'ho presa, non avanti la patente nautica. Vabbè, vai Claudio, avanti a te. Io. Mi sono uscito fuori, nel frattempo stavate parlando a voi, che è il mio vicino. Io ho commissionato una cosa, poi domani mattina te la porto. Visto che ti piace. Mi immagino già di cosa stai parlando, già mi piace, nel senso quello che hai nominato ieri. Poi a me piace, non sono a Roberto. Vabbè, non lascio io mi adatto. Adesso domani mattina vedrò a Bobo, poi vediamo cosa facciamo. Oh, ragazzi, perché siamo uscito fuori, c'è un freddo, mamma mia. Claro, tu arrivo, va su io, faccio una moneta, ti faccio mettere metà, taglio, va su io, va a parlare in due. Come metà Roberto? Che c'è caldo o c'è freddo? Avete parlato in Duca, Luca e Eugenio tutti e due, non sono compreso nulla, vai di nuovo Luca. Ho detto a Claudio di portare il vassoio, che c'ho una moletta, che è virginella, una macchina. Taglio il vassoio, metà per metà, metà a me e metà a Roberto. Luca, Luca, tu Robe. Ora ci sono quelli di Filippo che li ha mossicati e non gli piaceva perché erano troppo dolci. Se vuoi ti bossavo un vassoio di ghiaccio, Claudio, vero Claudio? No, mi piace di cazzo a me. Ma te ne vai, a io non le piace, ne ho tagliato una. Prima la mollata perché era calda, ma voi che avete prendato andata ce l'ha pigliata. Ultimo giro che ha solo lui dolce non può mangiare, capite? Non le può mangiare. Nina è bravo, ha lavorato per un sacco di anni da Vanari, il mio vicino di casa, sta sempre garrendo, mi ha portato le lomacche già pronte, lomacche e lomaconi già cotte. Adesso me le mangio stanotte perché c'è anche la pizza, però non le mangio prima la pizza, poi le mangio quelle due lomacche e lomaconi, è sempre garrendo. Ieri mi ha fatto una cesta di melanzane, peperoni, zucchine, di tutto. Di tutto, veramente una persona troppo in gamba. E vabbè, meno male, mi è andata bene, c'ho un vicino che siamo in rapporti fraterni. Gappa, cosa hai detto Natalia, Luca? Natalia. Ah, ti voglio dire una cosa, grazie, Carola. Fai what a me, e una gioca me la pongo in mezzo alla pizza, non mi mangia la pizza con la gioca. Ma con la buccia? E allora, metti mando la foto, sì. Non fare che, guarda, io no, non mi ha schifato, però io ho un amico, un ex collega di lavoro, che siamo in buonissimi rapporti, ogni tanto glielo ricordo. Un giorno si è ordinato la pizza, veramente eravamo in campagna a casa sua, abbiamo ordinato le pizze, e lo sai cosa ha fatto Robè? Ha preso i fichi d'India, li ha puliti, no? Li ha tagliati tutti a fette e cazzo ce l'ha messa una pizza. No, a me mi è capitato per errore, ho ordinato una pizza e andavo sempre a prendere questa pizza alla Fenice, quella in via Veneta, e poi ha chiuso, era un amico, e poi fammi la Fenice, poi c'era la Fenice 2, e che ti hai sbagliato, mi ha fatto Fenice 2, con i piselli mi ha portato la pizza, l'ho mangiata, però ci sono messo i piselli nella pizza, non c'è mai mangiato una pizza con piselli. Per carità, qua c'è una pizzeria che fa la pizza con i polpi, ma non vuol dire. La pizza vera, la margherita, sotto. Se vuoi mangiare la pizza ti prende la margherita, senza stare in piedi mettendo altre cose. E poi io sono più, ci metto le patate fritte e la carne di cavallo, poi la pizza e la margherita, non venuta di qua. Buona, Claudio. Cosa? Ehi. Guarda, te non ti arrivo, mata Roberto. Roberto, guarda la pizza che ho mangiato avanti ieri, con le lumache. Ti hai mangiato la giocca prima. Prima mi hai mangiato la buccia, e poi la giocca. Non mi ha portato un bel montecamino già pronto, non calda e calda a pranzo, dico tu, un assaggino, adesso me lo mangio stanotte. No, ma questo era proprio da schifare. No, la pizza con i piselli, uovo e piselli e cipolla esiste, è anche buona, non è male. Guarda, io la mangio sempre, mi ha arrivato lui, già mi ha arrivato, adesso me la controllo. Ah, se me la vuota le lumache lui? A me la pizza piace sempre capri e acciughe, basta, non la mangio diversamente. Poi mi guardo la pizza di Luca e oggi. No, quello cazzo, la più forte di te, Claudio, roba. Più forte di me? Vuoi avvicinare? No, vabbè che lui è tutto aperto, quella zona lì è micidiale, vabbè lui è micidiale. Sì, è la più forte di te. Vabbè, non di molto, diciamo che se vi mettete da, se vi parlate assieme ce ne esce un coso, dai, un mix di parmigiano reggiano. Allora, le lumache ce le hai messe tu o te l'ho girata così la pizza? No, io la pizza con le lumache, è una parata così. E chi è che la fa la pizza con le lumache? Adesso non mi ricordo la pizza come si chiama. Io con le cozze un po' di volte, quella frutti di mare, proprio cozze, ti mette, te ne mette la... Sono contate 34, me ne ho messo una volta, ti fa la zuppetta, sono dopo che non ci vado, quello che c'è a Marchetto. Lui era uno chef di Portocevo, ha lavorato una vita, e poi faceva anche le pizze. Infatti mi diceva, amico, oggi c'è la zuppetta, da lui, mi faceva la zuppetta da parte, e poi ci va a mettere le pizze, ma ho fatto le fotografie, era una cosa squisita, buona, cioè, più che altro ti mangiavi la zuppetta, e c'era poi rimaneva la pizza un po' umida di questa roba, di questo sugo, era troppo buono. E oggi lo so dove sono andato io, mi ha portato mia figlia con mio genero, a Babai. Sì, è fatto bene, ci mangiamo bene, la fa buona la pizza. Dov'è il tuo Bucaccioni che fa la pizza con le macchie? Comunque la fanno buona la Blackstone, Robert, o le cose, zuppetta di cose, l'ho mangiata io. Siamo andati quando era il compleanno di Marina, siamo andati lì, è buona, te la fa bella, come ti dici, bella, succosa, ben sassarese. Ma le più buone le faceva quando era vivo Teseo, mi ce lo potrà dire Eugenio, poi arrivati tutti, però all'epoca era numero uno, e poi c'è San Gavino, ancora sta facendo le pizze buone, Eugenio. Finalmente, alla grande, sempre buona che fa, quando la buona era Teseo non le lasceranno più. Ma dopo vuoi fare pizzeria e fare pizze con le macchie, se è vero. Se è vero, ma la volta non l'hai vista. No, io no, mandamela se te la mandata, fa la cortesia. Che c'è, l'ho detto a mia moglie, se mia moglie è idiota queste cose. Buona, non è cattiva, altra che te la mando. O mandagliela tu, ce l'hai il numero di Eugenio, Roberto, se no io devo uscire fuori. Te la mando io, Eugenio. Ma fa la cortesia. Ma dimmi dopo la pizzeria, però. E lo cane su, io sinceramente non mi dà molta ispirazione a mangiarmi la gioca così. Le pizze buone a San Gavino, a Porto Torres, la Corsara, quella lì, quella è una bomba. Buona, l'ho mangiata la Corsara, buona, buona, buona. No, io a Porto Torres, come dice Roberto, andavo da Teseo, poi con mio fratello, sono tutti gli amici conoscevo a Porto Torres estate. Poi ci sono un po' garetto gaga diretto in gergo molto, molto porcaccione, capito? E allora adesso andiamo lì alla nominamento, in via Torre Sacchi oggi. Alla fine via Torre Sacchi, dove c'era il mais, era il tuo collega. Alessandro, quando ci capiti di lui c'è un studio che ti fa un prezzo speciale, che abbiamo lo sconto compagnia portuale, e gli amici di quelli portuali sono trattati meglio. È molto amico Alessandro di mio fratello di Antonello, perché sai, lui lavorando all'Asi, quindi si conoscono bene. Ma ti dico, la fa veramente molto buona, c'è un bravissimo pizzaiolo, poi servizio non ce n'è per nessuno, tiene bene, si tutto malandato. L'ultima volta che siamo andati ha portato poco di bottiglie, di cose, ma sta cosa, c'è la buca, c'è tutto, io devo guidare, no, assaggiate tutto, non ti preoccupate, lascio c'è tutto qui, no, bravissima persona, ed è sempre pieno, nel frattempo infatti massa di persona, prenota, oppure le telefona, perché altrimenti non ci fai posto, capito? Vai Robby. Guarda, io le pizzerie, non dico ci si vado tutte le settimane, adesso un po' di meno, ma le conosco quasi tutte, dopo questa pizzeria, non ho capito, ha portato. Oh, dottore, prima di girare per lo Scoglio Lungo, proprio alla fine di via Torre Sacchi, la via principale, e scendere a Sassari, proprio alla fine, di fronte c'era un negozio, non so se c'è ancora il quadrifoglio, un negozio di mobili, e poi di fronte c'era la pizzeria, proprio dove c'era la discoteca, dove c'era il mais, lì, enorme, bellissima, grande, con un servizio da paura, gente in gamba, e la pizza è un bel buono. Ma la Rosa dei Venti sta dicendo? In giù della Rosa dei Venti, la Rosa dei Venti scendendo ce l'hai a sinistra, o 50 metri più giù a destra, molto meglio della Rosa dei Venti, ha perso tantissimo la Rosa dei Venti da quando ha aperto Alessandro. Ma tu quello che c'ha tutta la vetrata di fronte al porto stai dicendo? Di fronte al negozio dei mobili che ti fa la via del porto e poi scende della discesa, tutto, che prima era tipo trattoria, cosa del genere. Esatto, fa ad angolo, fa da una parte via Torre Sacchi e ad angolo con lo Scoglio Lungo, sì, di fronte al porto, quella. E ne fa buone le pizze, ma non è un po' così, e dice non è un granché, invece tu mi dici che sono buone. Non è un granché, non ti va a dire che non è un granché. Sino adesso, produttore, c'è porto San Gavino, molto meglio di quella di Piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi non mi piace più, è pacciosa, a volte è cruda, a volte no, non mi piace. Questa è veramente buona, usano una pasta molto, molto, molto buona. Guarda, non ci sono, io ci vado, perché io le pizzerie, ti ripeto, ci vado molto, molto spesso. Ma portatore, ultimamente, l'ultima volta sono andato allo Scoglio Lungo, per comodità, con degli amici, poi sono andato alla Rosa dei Venti, però quasi mai trovi spazio. Piazza Garibaldi ci ha sceso, non dico i vasi, però non sono più come prima le pizze, prima erano più curate, quando le faceva lui, adesso penso che abbiano fatto più quantità che qualità, prima invece curavano di più. Poi cos'è che c'è, portatore? Mabai, ottima la pizza, però lenti, grugoso, quel mese di maggio, poi chi c'era? Quello il Corallo, le faceva lo stesso le pizze. No, ce n'è un sacco di pizzerie, sì, a me Massimiliano, io ci andavo spesso prima lì, anche da solo con mia moglie, magari d'estate facevamo una passeggiata, andavamo, ci mangiavamo, poi me ne farà due balle perché la pizza non è più buona, lui si sta dedicando più alla cucina, e le pizze non le sta facendo più, e quindi ha calato tantissimo, e molta gente si è spostata sia alla Rosa dei Venti che da Alessandro, oppure va a San Gavino, ma ce ne sono un sacco di pizzerie, c'è anche la Tana che è piccolina come pizzeria, ma il pizzaiolo è lo zio di Mauro Gianni, già lo sai, zio? Sì, ma lo sai dove le fanno anche buone, alla Roccia, in via Sassari. Alla Roccia, sì, lì le fanno molto buone, via Sassari, è un grezzo produttore, di fronte all'Agip. Sì, anche lì mi hanno detto che è buona, però lo zio di Mauro Gianni, che è uguale, ma se tu abbaidi a Mauro Gianni, abbaidi lo zio, c'è uguale. Ed è molto molto bravo, lui è pizzaiolo, lui e la moglie, la sua pizzeria, la Tana, quella che c'è, quel vicolo praticamente che poi chiude lì dal campo sportivo, via Cavour, quella lì, è la fine di via Cavour, dove abita mamma. Ed è molto buona, molto molto buona, solo che si chiama la Tana proprio perché è piccolo locale, capito? Ci avrà, c'è no, una trentina di coperti, 30-40 coperti. Però la pizza è molto buona. Cacino, sì, anche lì è molto buono, sì. Anche lì lo fa molto buono il pizza. Lo sai che andavo tante volte, poi adesso sono qualche anno che non ci vado, il Carillon in via delle Vigne, c'è ancora lì la pizzeria? Il Carillon è mitico, quello è lo stesso, sì, mi ero dimenticato, anche lì andavamo. Nessuno, forse è chiuso, sai che è chiuso. Chiuso è oggi? Da quando l'hanno arrestata lui non si è più andata alla pizzeria. Ah, è vero, avevano arrestato a lui. Arrestato, è pagoso. Vediamo che faceva i prezzi più bassi di tutti. Tanto poi andavi a mangiare e te le ragava la roba. Perché faceva la spesa e usciva dalla propria sicurezza. Perché non pagava mai la roba. È un po' particolare quell'elemento, è un po' particolare. E vabbè, poi tutto il casino, vabbè, con con l'ex moglie, insomma, vabbè, una situazione un po' particolare, roba quella, c'è gente che conosciamo, noi Porto Torresi. E te lo ricordi dove c'era il babà e c'era il gobbo, ve la ricordate la pizzeria? Sì, sì, il gobbo, e la voglia. Quella, la prima pizzeria al gobbo, quella lì era di cose, di quel cuocomane che è morto. Di Fabio. Di Fabio Paolo. Dico poverino perché era una bravissima persona, però se ascoltava gli amici che lo volevano bene, forse a quest'ora sarebbe stato ancora vivo. Perché l'idea. E allora già gli ha fatti i soldi con la pizzeria e con tante altre cose. Una bravissima persona. Solo che c'aveva la mania della cipria, vabbè, capito? Si incipriava molto. E piaceva molto il bolottalco. Sì. E poi a Porto Torresi lavorava della buona la fine, quella all'ingresso, dopo, come si chiama, i granai, quella che fa l'angolo, quella che fa la fine, che c'è una vita, è un bel buono. Era mio cugino in primo grado, Mariolino Belmonte, allora, quello è il figlio della sorella di mamma, lui è Belmonte, ma si chiama Maria Falchi. Bravissimo, lui è una vita lì Mariolino, lui era dipendente e poi ce l'ha comprata la... Si può anche mangiare lì, ha fatto il piano di sopra, bellino, accogliente, si può anche mangiare. Ci sono andato parecchie volte da Mario, infatti c'è una bravissima persona, lui la moglie, c'è anche il figlio. È stata una bella cosa, sempre aperta, quella fine è sempre aperta. Oramai la fine genovese è un'icona di Porto Torres. Si è fatto il piano in su, si può mangiare, è bello, accogliente, caldo. Bravo, quella fa buona. Comunque ho trovato l'antenna su internet. Si chiama MP Charlie. E cos'è? Ma per la macchina? È un camper. No, ma intendo, io mi Roberto forse le conosce quelle antenne lì, io sono fuori dal mondo con le antenne per la macchina, per il camper, sono fuori dal mondo, vai Roberto. Ma chi c'è? Natalino, Luca, non vi prendono più? Io già sono qui. Va bene allora. E c'è bravo, va bene, mi seguo qua, nemi. E oggi? Ma Natalino non sta parlando, Natalino è la pasticceria storica di Sassari, adesso è del venditore un indiano, però anche lui mi ha guardato di dolce. E chi? Come si chiama? Io il Sassari, come si chiamava? No, se lo vuole dire lui, Natalino vuole dire il cognome. Melis. Di generazione era, Rubarabbo, Rufrazzè, ma tu ci hai lavorato quanti anni di Natalino pasticceria? Da bambino piccolo, io sapevo fare tutto. E poi si è dimenticata, adesso lui compra già pronta le dolci. Ehi, è logico che me ne sono dimenticato. Ah, Angelo, tuo fratello, adesso cos'è Fede? Pasticcere. Ma dove sta lavorando? Lì a Predanieda sta lavorando. Ah no, chi era l'altro? Il pescatore era un altro, chi è questo? Quello è Mario, mio fratello, quello lavora sul peschereccio. Sta lavorando di lì? Sì, sì. E tu dimmi una cosa oggi, visto che qua sono tutti cuochi, pasticceri e cose, io Massimo non ho conflitto, devo stare attento muro, se non lo rompo a prenderlo. Tu bravo stai cucinando oggi. Io, a me non mi batte nessuno, faccio i panini con la Nutella. No, non ne capisco niente in cucina. Ce ne siamo in due. No, Claudio è un artista, ma sei tu, ma dici. Anch'io no. Oggi mi hanno fatto i complimenti Barusugo, ma non fatto, figurati. No, io è una cosa che proprio non mi appassiona, io sono il mio genero che è un mostro, cucinato, si diverte, ogni giorno ne inventa uno, ma io è vero, proprio mi faccio fare la frittata, non so per voi, forse non lo so neanche fare il caffè, per dire non ne prendo caffè, se mi metto a fare il caffè forse come vuole con gli altri ci riesco, se no non so fare manco il caffè. Passione, ci vuole. Ma io non sai cucinare robe. Vero assoluto, ti ho detto io l'unica cosa che so fare, mi posso farti una frittata, un uovo fritto, forse qualche juice di quelli a scaldare un pochettino e boh, tutto il resto ho sempre mangiato fatto dagli altri. Vabbè, non c'era la tua madre, che era cucinava lei, tua moglie, insomma, e i tuoi figli, quella che è a casa non sa cucinare neanche lei. Sì, già sanno cucinare, ma il fidanzato di mia figlia è veramente bravo. Come il tuo Natalino ti nasce, ti deve nascere, io ho imparato da ragazzino praticamente, mamma ci metteva a fare un po' di tutto, poi quando sono stato tracciatista, che ero a Cagliari, e abitavo a Cagliari tutta la settimana, mi sono dovuto rimboccare le maniche. Oggi la cucina, grazie a Dio, la porto avanti più io che mia moglie, so fare tutto, da tanti pasti, primi, secondi, contorni, tutto, bella la zetta. Il sugo lo faccio io, ad esempio, lo faccio più buono di mia moglie, so fare tutto. Ti deve nascere, come ha detto Mattarino, se non ti nasce, è venuto da qua. Vero genio, tu sì che ne sai. Per quanto ne so, no, di cucina, io che non mi dico niente, non sono manco, non è per me, non è inutile, ci ho provato, ma non... Non è roba che mi appartiene, non ho la manualità, un sacco di cose, mi diletto anche a fare leggermente, senza offesa, leggermente il carrozziere, leggermente, perché mi piace, è una cosa che mi ha sempre appassionato farlo. Ma la cucina non è per me. Vabbè, allora lo possiamo assumere a Eugenio, mandiamo poi in ferie a Riccardo. Infatti così un po' di mandroniare basso la chiedo, che c'ho io. Dai, ora non è mandrone, dai, anzi non frutti. Guarda, io dico una cosa, ci sarebbero i vecchi operai nostri, che poi sono tutti diventati a conto proprio, si rivolterebbero se vedessero cose del genere. Un ragazzo, niente da dire, educato, non puoi dirgli niente, però cacchio, una lentezza, dire basta ragazzi, oggi lo stavo guardando, stavo usando la rivelatrice, cacchio, io me lo stavo guardando e dicevo, ma come cacchio, come si fa a non sapere, cioè, una lentezza nei movimenti, una cosa, buh. Poi la rivelatrice, no, ma glielo vedo, lo sai, sono tutte le mattine lì, quindi glielo vedo. Già nel camminare a me, essendo io molto veloce, sia nel passo, nel muovermi, eccetera, vedo per esempio di andare nel turende, già vedendolo camminare a me mi fa spaventare, poi vedendolo lavorare non ne va vedendo. Già lo so, purtroppo è così. Ok, vediamo se Luca è rientrato, se sta cucinando qualche cosa. Andate Luca. Niente, allora facciamo riprendere Natalino. Che ricetta stai facendo oggi, Natalino? Oh, vabbè, non è che ti servono anche le colonnine esterne da mettere nella scheda audio, come si chiama? Oh, se non sono brutte, Mario, uno spazzetto già li troviamo. Non so, se ti servono, però. No, sono belline, sono quelle dritte belline, non so, cagate, sono belline. Sono belline, poi le puoi usare anche, io due ce le ho cambiato il jack, le ho messe come colonnina esterna e ti dico che si sente meglio dell'altoparlante della radio. E che quelle sono amplificate, tra l'altro, le ho date una coppia, le ho date a mia figlia, e si ascolta il cellulare lì. Non te ne do allora, la metto anche quella dentro la busta, che sono dentro la scatola, io c'ho una scatola qua, infatti ci ho trovato il pennino, tutta l'attrezzatura del computer, la tastiera dentro la scatola, solo il case era, pensavo di non averlo, mi deve averci buttato tutto, e invece era qua, l'avevo portato qua, forse nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto col fratello di Luca, con Stefano, abbiamo portato tutte quelle scatole del computer, tastiere, alimentatori e balle varie, ragione che era tutta piena di gavi, gavetti. Se riusciamo ad andare anche un po' prima, anche alle 9, così poi mi incammino subito per partire da Olbia. Io posso andare anche alle 9:15, tanto ci sono dalle 8 in officina, vado a prendere il pane, è tempo di rientrare, alle 8:15, 8:30, sono di lì io. Se vuoi essere Luca sveglio, facciamo tutto veloce, così mi incammino presto per partire da Olbia, anche andare troppo tardi. Io alle 9:10 sono in Piazza d'Italia, perché devo portare a... Ilaria lavoro che entra alle 9 domani mattina, quindi come lascio a lei passo direttamente da te e poi andiamo da Luca, intanto prima delle 9:30 Luca non c'è, perché mi ha detto non so cosa deve fare. Prima delle 9:30, io pensavo che si alzasse presto. No, non prima delle 9:30 possiamo andare, capito? Io faccio in fretta perché lascio Ilaria al bar faccio direttamente via Roma, 5 minuti sono da te, capito? Quindi io alle 9 sono da te, 9:05, 9:10, quindi possiamo andare subito, ti prendo e andiamo subito, però lui prima, 9:15 non penso ci sia. Ah no, io pensavo che tu parlavi in moto e dovevo salire io a prenderlo. No, scendo in macchina io che mi serve la macchina domani mattina, roba. Accompagno Ilaria, poi vado a prenderla a Luna, tanto poi lei rientra alle alle 6 perché si fa la chiusura le domeniche e sabato, quindi stacca all'1, vado a prenderla all'ora di pranzo, poi lì alle 6, alle 18 si prende la macchina e va da sola, poi domani mattina mi serve la macchina. A parte devo portare questa cosa a te, ma devo fare anche altre commissioni, e in moto c'è troppo freddo, roba, cazzo che era Biancaracci stamattina. Comunque a proposito delle moto, scusa Roger, c'è ancora quella moto me buttata vicino a Marcello, è sempre lì, nel nostro soppposto, lampada, ed è un peccato, quella è una moto rubata, si trova. Sì, mi hanno chiamato a quella persona là, e grigia, non era grigia, la sua era beige, beige con la sella marrone. No, questa è grigio metallizzata, credo che sia 300, non so che c'è andata, è grossa, almeno non è una motoretta cagata, c'ha il freno a disco posteriore, c'è chi lei, è bella, una bella moto, l'unica puzzone c'è, gente balorda, sicuramente l'hanno rubata e ce l'hanno buttata lì. Sì, ma infatti l'ho detto, vedere se era grigia la sua, non ci ho chiamato l'ho ritrando, e mi ha detto che non era grigia la sua. Cioè, ci ha fatto la denuncia e tutto, ma è già da quest'estate le hanno portata via, quindi capito? L'officina mia, l'officina, l'ho lasciata in officina, no? Perché doveva tornare subito, se no si mettevano altre macchine, capito? Perché quando chiudeva lui all'1, no? Sanno che posso terraio libero, lui riapre alle 3 o alle 2:30 e si mettono macchine. Allora ha lasciato la moto lì e se n'è andato in macchina. E ho detto che non verrà più la moto. Fammi fare memoria, che moto era? Un Beverly 300, beige. Beverly, quanti ferroni? Che mi viene l'orticaria? Lo so, che mi viene l'orticaria, però io lo usavo per sfottarci, capito? Nuova nuova, mi ce l'aveva, se no, un anno, e me l'hanno, le hanno rubato dall'officina, da fuori dell'officina. Non è quella lì, mi sa di Gareghi, sa grigia, boh, mi devo informare a Cerveria se qualcuno gli hanno rubato il Beverly. Però la sua mi ha detto, no, ti ricordi, la mia era beige con la sella marrone, infatti mi ricordavo. Infatti, boh, malurdi, cazzo, boh. Ok, vediamo se c'è ancora Natalia. Natalia! Oh, yeah, sono qui. Adesso sto cominciando a sentirlo a... perché c'ho troppo QRM qua, a Eugenio. E ci avessimo intendito, dai, aumentiamo un pochettino. E oggi mi ascolti? Sì, poi come se fossi qua, già Ugrino, davanti ti ascolto, buonasera. Buonasera anche a lei. Ehi Gaspettina, con 2:30 esco perché sennò disturbo. Ma di la mattaccia lì, scusa di la furti. Oh, iaia. Non tutti mi sentono, capisci? Stava innescando, perché era vicino all'altoparlante il microfono. Ma ci interessa, io ho un coso, 200 euro lo do. Un Galaxy Saturn Echo. C'è un QRM francese, come quella che hai tu, non so tu, come te chissà. Non è possibile, no? Mi viene difficile a sentire a Eugenio. Qualcosa l'ho sentita poco fa, ma dopo è incomprensibile adesso. Avete parlato in due, forse per quello che l'avete sentito. No. E vabbè. Comunque, ritieniti salutato, Eugenio. Quando ti sento, ti sento. Quando non ti sento non ci posso fare niente, cioè il QRM è atta qua a 7. Ma hai tirato solo la potenza? Come? Se no non mi senti Eugenio, non dove vatti, come ti vatti, intendimi. Da no, neanche 9, qua c'è 9-10 abbondante. Lo so, però se avessi avuto un 140 o un 440 sarebbe stato meglio. Magari sentivo anche meglio. Cosa ha detto Eugenio? Ho detto che la mia da 0 è passato a 4 e poi il modulo è diventato 5, è passato a 5. E anche qua c'è un bel segnale, Natalino, se tiene la potenza alta. Vabbè, che io nella posizione in cui mi trovo già lo vedo a lui, già lo vedo. Avanti, vabbè. Simili a Totte, ma ce l'ha fatta. Sono belle, sono grigie, cromate grigie davanti, hanno il piedistallino suo, con gli attacchi sui. Se ti servono le usi per il... per la scheda audio, erano, sono due nuove anche quelle, forse sono di quelle con titoli buoni, ma non me ne ammetto. Sì, vediamo. No, Natalino qua a 9.25 arriva con il, quando ha attaccato, se no era quasi 9.20 e si sentiva, nonostante che più, più basso, Eugenio 9.10 arriva, si sentiva poco poco sotto Eugenio di radio. Per Eugenio c'è la radio, l'era in bomba. Ma io non attacco niente, mi premesso che non attacco niente, sono i watt dell'apparato qui, sono regolabili, non è lineare, no, Robè. Anche io ho lineare, attenzione, io come ho iniziato questa radio, Bulldozzo me l'ha sintonizzata su 10 watt perfetti e sul 10 perfetto è rimasta sempre così, non ho mai aumentato niente, è sempre così. E di picco quanto è? Prova a frusciarvi. Di picco cosa significa il picco? La portante è a 10 watt, giusto? Ma è precisa, c'è il power sotto, c'è scritto power. Quando schiacci la portante va dove c'è scritto 10? Sì. Quindi è perfetto, perché quella apparatura l'avevo fatta io. Quando fischi, quando parli, da 10 a dove arriva? 50? No, supera leggermente il 100. Quando fisco la rete. Cosa rete? Guarda, io sto usando, la gemella è la tua, e sto usando 20 watt di portante modulati 50, modulati però sul parlato, capito? Però i watt sono sempre 20, perciò c'hai dei picchi belli di modulazione. Digli a Eugenio se me la vende. L'inteso è Natalino, ha detto se gliela vendi. Gli do questo qui, mi ci ho messo tanto a avere un chiuso, di no, no, no, questo rimane qua col microfono, è tutto perfetto, no, no, come l'altro Claudio è qua, nuovo, nuovo, perfetto, ma ci ho messo tanto per averlo, no, no, no, ma il Galaxy Saturn è questo bando. Ma te quella te l'ha data Massimiliano, ma era la mia, io l'ho giurata da Massimiliano, Massimiliano l'ha data a te, sempre da qua partono, e quando partono da qua stai pur certo che sono radio serie, quella è nuova, nuova, nuova, nuova, quella Robè, non sai quale scegli. Già lo so, l'hai detto tu. Appunto, quindi ci tenevo tantissimo a quella radio, tantissimo, però sapendo che ce l'aveva Massi gliel'ho data col cuore, sapendo che ce l'hai tu e sentendola mi fa ancora più piacere, capito? Ma secondo a chi la dai, ci rivendini, ridistruggini. A me me ne è rientrata una che avevo dato 6 anni fa, come l'ho data me l'hanno restituita, perché non se ne fa niente, era sempre ferma, tant'è vero che quando me l'ha data c'era la batteria tampone da sostituire perché non manteneva più le memorie. Io l'ho sostituita tramite il carissimo Fabri, che mi ha dato una dritta lui come fare, e la radio è nuova, nuova, nuova, ed è questa che sto usando. Quindi immaginate, tu gliel'ho data 6 anni fa e me l'ha restituita, che è più nuova di prima, perché non l'ha mai usata, era sempre ferma dentro l'armadio. No, ma il microfono me l'hai dato tu, te lo ricordi? Il microfono è tale come me l'hai dato tu. Ti ricordi l'MC60? Esatto, ne avevo due, anzi ne avevo tre. E io non sto usando il 60 con la stessa radio, vanno benissimo, e quello è nuovo nuovo, ho usato il migliore che avevo praticamente, ma sono tutti nuovi i microfoni, però quello era, mi sembra, l'ultimo che avevo comprato, era nuovo nuovo, e tra l'altro mi pare che c'è anche la scatola carbonati, se la trovo te la do, così magari quando non lo usi e non ti serve lo metti dentro la scatola, che rimane più in ordine. Avanti Robby, un secondo che vado a spegnere il termoconvettore un attimo. Ti dirò, Claudio ne ha riempito tutto Zaffari, e oltre pure anche paesi, oltre, non dico fuori provincia, ma ne ha riempito un bel di queste radio, tutto Sassari e oltre. E tutto senza avere un reclamo a dire che uno mi abbia detto la radio non funziona. Tutte perfette, funzionanti, senza avere mai un problema. Io i 440 temevo a vendere Mirro, beh, perché ho cazzo, se fa qualche difetto faccio figure di merda. E invece li vendevo revisionate, proprio per non avere problemi. Quella che c'è Antonello, ad esempio, quella gliel'ho data io ed è contentissimo. Sì, ma io di questa radio sono innamoratissimo. Tieni conto che io il 440, cioè ero innamorato del 440, te lo ricordi? Tutti mi hanno detto lascia stare il 440, è portato a dare problemi qua là, mi sono preso Quegua e sono soddisfattissimo di più. Natale, oh yeah. Aspetta il termoconvertore, che è un caldo, non ci buietta. Sì, carissimo, sì, io le ho date sempre tutte a posto alla radio, mai e poi mai mi sono permesso di dare una fottitura a nessuno, mai, capito? Perché sono radio molto, molto particolare, io ci ho sempre tenuto, avevo, ripeto, sempre la paura del 440, quando li vendevo ne avevo venduto 7 o 8, però grazie a Dio è andata sempre bene, sempre bene. Di 140, 680 l'avevo venduto una decina, non mattesci. Di 430 non ne ho mai dato, me lo sono comprato per me e me lo sono tenuto, ce l'ho 10 anni io, 430, non l'ho mai dato. Ma Luca, la Fuji 2, cosa sta facendo? Chi? Eugenio, sarà caduto dal letto. No, Luca. Luca sta preparando che doveva uscire, lui il venerdì è sempre in tournée. Oggi non hai pensato a metterti una radio? Lui ce l'ha la radio. Sì che ce l'ha. Maracchino, ma che cazzo è duro. Ci sono quelli in America che ci mettono anche maracchini, ma quelli grossi, quelli a 50, 100 watt. L'hai vista la radio, la moto di Eugenio, già la conosci tu? Sì, io la conosco. Conosco la vecchia e anche la vecchia, Dio. La prima e anche la seconda. Vabbè, qua non abbiamo lo spazio per farlo, ma in America quelle moto lì sono super accessoriate, qualcuno ci mette anche quel frigo piccolino dietro, quelli che funzionano a 12 volt, il baracchino, lì tutto di più. Sì, ma ce l'ho anche un amico con la mia, c'è il baracchino, e sulla moto non mi piace, capito? Si può mettere, non è un problema, si può mettere tranquillamente. Oh, e oggi? Sì. Ma Cento sempre ce l'ha la moto. Ecco, Cento è quello che ha il baracchino sulla moto. Sì che ce l'ha, è a voglia. Cento è vecchio, sta sempre andando in moto. Ma quella non è una Erling? No, quello è il nuovo Godwind, nel 8. Esatto, sì, quella è completa, quella ce la vedi, c'ha le antenne, il baracchino, la radio, navigatore, di tutto di più. Vabbè, un Cento... conosco una vita io in moto, ero ragazzino quando lui già usciva in moto, è stato anche presidente del motoclub, bravissima persona, conosco una vita, anche perché io diciamo che sono nato lì, quindi gappa, avanti e tratta lì. Allora si busca o non si busca questa? A buscare già si busca, noi ne abbiamo una sotto mano con Roberto, ma che attrice vuole vendere un monumento di Mazzini, ah Roberto. E adesso la settimana vediamo, la settimana prossima a vedere se s'acciara. Vedi, se te l'ho detto Natalino, non ne possiamo parlare molto qua, però stiamo facendo l'operazione con Roberto, se va in porto ti avvisiamo, capito? E quella è una cosa bella, vai. Tu non mi vuoi telefonare? No, Cla. Non prende il telefono tuo? No, dentro no, Natalia, è lì vicino alla porta, ma no, non prende, fuori non esco manco, se mi parli, già ti chiamo domani al limite, domani che intanto sono a Sassari e ti chiamo e te lo spiego, capito, te lo dico. Non è che mi posso aprire molto perché è un'operazione che sta facendo Roberto in Sardegna, però siccome io ci sono in mezzo perché mi serve una cosettina, se dovessi andare in porto quella è quella che avevi tu prima, mi capito Natalia, quella che piace a te, però ti ripeto, dico sì, però non mugni, adesso Roberto ci sta lavorando, vediamo un po'. E comunque non avete conosciuto la terza di Harley voi? Quella uguale a quella dei Chips. È quella che ho visto io in piazza, quella è la seconda, non è la prima. Quella che hai visto tu in piazza è quella rossa? Quella lì, quella è bellissima, quella è la seconda e la prima. No, quella è la terza, cioè la seconda, non la terza, la seconda. La seconda è quella uguale ai Chips, col vostro davanti grande, con i faretti sui fianchi. Bella, gran bella moto, a tu vai Sabassione, io non ci riuscirei manco a stare seduto su quella moto lì, anche non mi reggono i biollanti, assolutamente, io ho dato l'Hornet 3 anni fa, proprio perché non ci ho bucaggiuto entrando in garage, non mi ha tenuto la gamba e se ho aiuto a cabattere mi ha aiutato la mattinata, cioè mai mi c'è l'idea, ci ha detto boh, non ne voglio più. Sì, ma si scopre la coppa paura, buonanotte. Dai, io sei giovane, poi giochiamo otto. No, oggi no, lui, anche mia moglie è sempre disperata perché io non ho niente con la moto, nel senso che la porto benissimo, sono molto prudente, ma bisogna stare anche attenti agli altri. Superato una certa età, non sono più un ragazzino, basta. Io a 15 anni lui ha in moto, oggi, avevo 15 anni io quando ho iniziato a guidare la moto. A 18 anni, quando mi sono preso la patente, avevo il VFR 750, poi ne avevo cambiato tantissime di moto, tantissime. Il primo Kawasaki Z400 lo c'era a Porto Torres, granato, color rosso, tipo quella che c'hai tu. Così che avevo preso la Piu, era la mia. E la prima volta che ho ritirata, no, non sono riuscito manco a guidarla, come sono sceso in piazza, là c'eravamo la greffa, lì dove c'era l'edicola, in piazza della Consolata, Lubrimo, Roberto Rubinetto, Biglia e Pace, tutta da buon ora, la Boi, come si chiama? Va. Insomma tutti gli amici miei, quelli che hanno oggi la mia età, tutta la sera mi ha riconciliato un pieno di benzina e io non lascio manco Ducada, quindi già sono stato bene, ma ho finito con le moto, e l'ultima l'ho lasciata tre anni fa. E con la Hornet era bella, dimmi chi c'è la più io. Mi piace Natalino qua, avevo comprato, l'ho tenuto un'estate e poi basta, Natalino ci aveva il 650, io ci avevo il 600, insomma una bella greffetta, Tino ci aveva lo stesso il 600, l'Honda, una bella greffetta, e poi abbiamo mollato tutti perché è così, caro mio Eugenio. Ancora ce la fai, sei in forma, ed è bello che ti godi la moto, perché la moto a me piace tantissimo, però non ve la porto più. Nine, vai Robby. Sì, Roger, ma hai cambiato la tua moto, ti sei preso? No, qua ce l'avevo già prima, però quella dei chips non ce l'ho più, l'ho dovuto vendere, ce l'ha un carabiniere qua per l'Ottornes, l'ho dovuto vendere, che oltretutto l'ha presa e ha rotto già il motore, per carità. E come ha fatto a rompere il motore? Il cambio? Le armi sono molto robuste, ma allo stesso tempo sono comunicate. La mattina, se tu la lasci fuori, a parte che non la devi lasciare fuori l'armi, però se la lasci fuori, la mattina, prima di usarla, scendi da casa, la metti in moto, 5 minuti, la fai scaldare bene, e poi la puoi usare come una moto. Invece no, era di quelli che si metteva, chi se la moto, la metteva in moto, sopra che va, due parti di tutto. E chi ha che già ti costa se trova una moto del genere? A parte che la riparino non è che ce ne siano molto. No, vabbè, già i trovi di cambio, trovi tutto, va. Però la devi usare dalla moto che è, capito? Certo, una moto che non è fatta per correre, una moto per fare strada, quella è buca. Ok, vediamo di nuovo Natalino, andate anche Natalino. Sì, capo, Eugenio, non lo sento bene, ma guarda, mi rompe così le scatole che ho questo QRM, devo chiamare antenna a tutti. Te la deve andare da lì dove ti ho detto io, quando eri tu nell'altra postazione eri uno dei più furti, che aveva da tutte le parti. Sì, già lo so, ma di lì non mi va bene, capito? Da qui. Quanto arriva oggi è Claudio da dove sta modulando adesso? 7 modulati 8. Io quanto te arrivo? Tu 9 modulati 9,5. Ah, quindi arrivo anche abbastanza bene. No, pensavo che lui arrivasse più forte di me a Porto Torre. Ma lo vedi ci fisso. I più forti che arrivano a Porto Torre da Sassari chi sono quelli che ti arrivano più forti di tutti? Tu e Claudio. Ah, più forti di quelli tipo doppio rumo, con la gente di Luca. Luca faccio fatica a sentirlo. Perché sempre, quando non sento a casa della ragazza. Sì, Luca arriva, non mi ricordo se era o 6 o 7. Doppio rumo arriva a 7, lo stesso. No, poi sono arrivassero molto più forti di me, considerando che loro sono belli aperti, almeno Gianni Doppio Rume è molto aperto di lì. Allora signori, vi devo lasciare adesso, mi hanno chiamato, magari se ci siete ci sentiamo dopo, dai. Io devo andare a mangiarmi qualcosa. Ciao ciao, ciao Uge, passa, già lo sai dove trovarmi, Natalino idem. Ciao Claudio, se ci sei qua ci sentiamo dopo. Sono domani mattina. Sono rientrato. Sì, sì, sì, roba, domani è accesa qua la radio, non so cosa ci sia la TV, ma domani è accesa, vediamo se entra qualcuno. Se no spengo tutto e vado a vedermi la TV. Già ci aggiorniamo domani mattina, io appena accompagno l'aria al bar. Okay. Buonasera a tutti. Tu chi ci scende tutto così? Già lo sai che sono capo del Rugoso, ne ha tanto. No, bambolezza! Vai metti 60, che ogni tanto fai capricci. Da sotto, da sotto. Devi muovere quella levetta, tutti così, anche il mio fa così ogni tanto. Ma secondo me ha qualcosa al filo, perché adesso io, secondo come muovo il filo, me lo fa. Ah, boh, no, il filo non ha mai difettato. Io ne ho venduto uno a Eugenio, non le ha mai difettato, mai. Il filo è difficile, c'è il pulsantino sotto, la commutazione in out che ogni tanto va in tilt, ma è un difetto dell'MC60, a meno che quello non sia stato modificato il filo, disaldato, io oggi ne ho dato originale. No, mai nessun problema fino adesso, facciamo le corna. Buonasera, mi sentito? Antonio? Vabbè, però se ti dovesse difettare che vedi che non esci, lo sollevi, sotto c'è un pulsantino, lo tocchi appena appena, va in tilt quello, capito, quel commutatore, in out, c'è scritto lo muovi avanti e indietro e se le mette a posto da sopra, è un difetto, è dall'87 che tratto l'MC60, non era manco primo da ancora quando l'ho comprato, era ancora marcato trio, figurati. Avanti Natali. Cara gara. Vabbè dai, io vi saluto, me ne passo in QRT. Salutoni a tutti, dai, alle prossime. Ciao Antu. Ciao Natali, buonasera. Ciao Natali, ciao Gio Natali, senti il bimbo. Oh, buonasera, buonasera, scusami. Andiamo, andiamo. Ciao Eugi. Ciao Gio Natali, buona cena, ci sentiamo, ciao. Stammi a corte. Ma saluto un Eugenio, scusami, stai arrivando sparato qua, a casa mia. Oggi ti sento a bomba. Ciao a te, buonasera, mi sentito. Io esco così. Non ho mai toccato niente, non ho aggiunto di niente, solo così. Importante, c'è. Il mio apparato, il mio microfono. No, Eugenio. Allina. Cosa c'è importante lui? Copiava un disturbo. Eugenio, mi ripresi 10.000 euro? Sì, no, non c'è problema. Ok, domani allora ti scrivo e dico, caro amico, ti scrivo, 10.000 euro mi devi prestare. Non c'è problema, lui, dimmi se li vuoi in contanti o con assegno. Ah, guarda, ti piace, poi tu ti dà 50 anni per me, lui, là. E allora, che problema è? Basta scendere di là, non c'è bambino. Sì, tu hai, la mia che si vede così qua, Qua è Natalio che fine ha fatto? E qua sono, che sono in agguato sono, già lo sai, questo ti sta aspettando, adesso ti si faccia i pantaloni nel di dietro. Ma sono a Britella, sì, Natali. Capo, dai, io vi lascio che vado a mangiare, ci sentiamo dopo magari, ok? Io vi lascio del tutto, ciao a tutti, ci vediamo domani, qua. Ciao, ciao Roberto, Eugenio, Natalino, Antonio, Gianfranco, Iva, Michele, Antonio, Sandro, a tutti, ciao. Ciao Zio Lu, ci sentiamo domani mattina, là. E anch'io mi allontano, va. Me ne vado un po' al Calluccio, che qua c'è un po' più di freschetto. Ciao ragazzi, se coincide a più tardi, se no ritenetevi tutti salutati, Natalino, Antonio, buona cena, a te Chihuahua, a Luca, a Roberto, insomma a tutti, se coincide a dopo, ciao. Ciao Chihuahua, siti dillo, ciao. Anch'io là e chiudo che vado a cenare anch'io, a mettere qualcosa sotto i denti, a far muovere le mandibole, va bene. fare alimentazione edilizia, la ventiera. Ciao ragazzi, un weekend a tutti, siti in bimbo. I due da Portottone vi saluta con tanti saluti e tanti abbracci e baci. Si intendiamo la bussola, ciao. Ciao oggi, ciao. Cande caldi, c'è radio, una bomba, Santiago Nove sta arrivando. Ultimamente bene, radio super 5, ciao. Grazie, ci sentiamo, ciao a tutti, ciao. Ciao.